La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buon anno a tutti da Franco D'Assisi e ben ritrovati all'appuntamento con la Rosa Purpurea in questa edizione speciale di Capodanno. Siamo alle prese con un nuovo anno che si è aperto, noi vogliamo introdurvi in questo 2010 del cinema e anche raccontarvi un po' quello che rimane agli atti del 2009 che se n'è appena andato. Che anno è stato per il cinema, come lo ricorderemo? Lo faremo con una sorta di cronocalendario cinematografico dell'anno che è appena finito e poi con una ospite assolutamente di prestigio e di rilievo come Piera De Tassis, direttore di Chuck, per immaginare invece quali saranno i primi film da attendere con trepidazione nel 2010. Poi cercheremo anche di ricavare un angolo per capire che anno sarà per l'home video con Claudio Poffi. Tutto questo nella puntata speciale della Rosa Purpurea. Cominciamo con il 2009, cominciamo con il nostro viaggio in un anno che si è appena concluso. Che anno è stato il 2009 per il cinema? Come verrà ricordato? Dovessimo fare una copertina, a chi la dedicheremmo? Beh, siamo stati indecisi fino alla fine con un paio di titoli, perché da una parte è stato sicuramente l'anno dell'esplosione di New Moon, dei suoi giovani vampiri, di questa saga che sembra avere ammaliato davvero tutto il mondo, e dall'altra parte è stato anche l'anno di The Millionaire, il film che ha sbancato gli Oscar ma che ne ha soprattutto cambiato il volto più intimo e segreto. Ma ripercorriamolo quest'anno quindi con i film, i protagonisti più acclamati, come sempre partendo dall'inizio della stagione dei grandi festival, che è quello di Berlino nel febbraio del 2009, un festival come sempre impegnato con politica e società che sfilano sul grande schermo, ma senza mai dimenticare anche lo star system. Un festival, quello di Berlino, che mostra al mondo la grande prova di Kate Winslet, ex nazista, con un rimorso interiore in The Reader, interpretazione che qualche settimana dopo varrà alla signora Titanic un Oscar per la migliore attrice. Non mi parli mai di quello che studi. Stiamo studiando un'opera teatrale. Puoi leggerla se vuoi. Preferisco ascoltarla da te. Narrami di quell'uomo, musa, di quell'uomo dal multiforme ingegno che tanto tempo vagò. E già, gli Oscar. Il 2009 ha segnato un punto di svolta nella filosofia di questa manifestazione. Segnali ce n'erano già stati negli ultimi anni, ma mai come nel 2009 il cinema indipendente dalle tematiche forti, impegnate, lontane dallo star system fine a se stesso, aveva vinto, anzi stravinto. 8 statuette a The Millionaire di Danny Boyle, uno che aveva fatto Trainspotting e che è un po' come fare ministro uno dei Sex Pistols. Ascoltiamo cosa è successo la notte degli Oscar. The Oscar goes to Slumdog Millionaire, Christian Coulson producer. E questo era Steven Spielberg che annunciava appunto la vittoria per il miglior film a The Millionaire, che poi ha veramente incassato tantissimo, tra l'altro anche al botteghino di tutto il mondo. E non finiva qui quest'anima impegnata degli Oscar, perché migliore attore è stato giudicato Sean Penn, riva sinistra di Hollywood, per l'interpretazione di Harvey Milk, leader del movimento omosessuale, e ancora l'Oscar postumo a un maledetto come Heath Ledger. I tempi sono proprio cambiati sul Sunset Boulevard. Questa città merita un criminale di maggior classe. E io sono pronto a darglielo. 10 uomini che lavorano per me adesso. Questa città è mia. Non lavoreranno per un mostro. Un mostro. E se adesso io ti taglio a pezzetti e ti do in pasto ai tuoi mastini? Così vediamo quanto è veramente fedele un cane affamato. Non si tratta di soldi. Si tratta di mandare un messaggio. E questo era l'indimenticato Heath Ledger, uno dei cattivi più cattivi dell'anno. Arriva la primavera 2009, che significa come sempre Costa Azzurra, Croisette, insomma Festival di Cannes. Si apre con un capolavoro animato, ultimo riconoscimento, proprio l'apertura, a un genere ormai definitivamente accettato dal cinema con la C maiuscola. È il disneyano, ma soprattutto pixariano, Up, la commovente storia dell'amicizia fra un anziano venditore di palloncini vedovo e un giovanissimo boy scout sovrappeso. Risate e lacrime, come avrebbe voluto il vecchio Walt. Buon pomeriggio, io mi chiamo Russell e sono un esploratore della natura selvaggia della tribù 54, 12° branco. Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi, signore? No. Potrei aiutarla ad attraversare la strada? No. Potrei aiutarla ad attraversare il cortile? No. Potrei aiutarla ad attraversare il portico? No. Ma devo aiutarla ad attraversare qualcosa? No, me la cavo benissimo. E questo è uno dei momenti di Up. E mentre proprio a Cannes la Palma d'Oro va al maestro austriaco Michael Haneke per lo straordinario e rigoroso Il Nastro Bianco, il film che marchia il festival è Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, libero remake di quel maledetto treno blindato di Enzo Castellari, un altro omaggio al cinema italiano degli anni 70 dal regista di Knoxville. Fra tre giorni Joseph Goebbels darà una première di gala per il suo nuovo film a Parigi. A questo evento teutonico presenzierà la maggior parte dell'alto comando tedesco. Avremo tutte le uova marce in un solo cesto, in pratica. L'obiettivo? Far saltare il cesto. Oh, sì. C'è una cosa che non sai. E cioè? Hitler sarà presente alla première. Come voleva fargli entrare alla premiera? Incontrerà la nostra gente in incognito. Da lì ci penserà lei. Siamo al 28 agosto, una data da circoletto rosso. Arriva nei cinema italiani L'Era Glaciale 3. Sid e compagnia sbancano il botteghino e si portano a casa il biglietto d'oro per il film più visto dell'anno. Ehi, non si morde! No! Oh, mi dispiace. Non è niente. Non piangete, per favore. Ma certo, avrete fame. E io so già cosa fare. Zitto, perfido abietto animale, e io sono il tuo bimbo, e questo è il mio latte. Ah, pensavo che fossi femmina! L'estate sta finendo, come cantavano i Righiera qualche anno fa, quando a Venezia, fra i lavori per il nuovo Palazzo del Cinema, il Colossal di Giuseppe Tornatore Baria inaugura la Mostra del Cinema di Venezia. La vincerà un piccolo film israeliano e pacifista, Lebanon, tutto girato all'interno di un carro armato per sentire meglio l'odore della paura di quattro giovani soldati alla prima missione. Ma Venezia 2009 passerà alla storia soprattutto per l'outing della coppia più chiacchierata dell'anno, Clooney-Canalis. Il pubblico sogna, i rotocalchi vendono finché dura. Ma il cinema entra nell'autunno con il grande ritorno di Woody Allen. Basta che funzioni, ci riporta alle atmosfere salaci e graffianti dei suoi tempi migliori. Lei mi ha lasciato. Ma succede a voi, etero? Ma allora tu saresti... È un peccato contro la legge di Dio. Ha fatto tutto l'universo perfetto, gli oceani, i cieli, i bellissimi fiori. Esatto, è un arredatore. Pochi giorni dopo, il Festival di Roma è il trampolino di lancio per New Moon, secondo episodio della saga di Twilight. Robert Pattinson fa impazzire migliaia di ragazzine e anche molte mamme. Vampiri contro lupi mannari, stavolta con gran finale a Volterra, anche se in verità si tratta di Montepulciano. Che cosa dobbiamo farne di te? Sai già quello che dobbiamo fare con lei, Aro. La ragazza sa troppo. È un pericoloso fardello. Questo è vero. Felix. E il terzetto di Festival dell'Autunno Italiano si chiude con Torino. Un mese dopo c'è Francis Ford Coppola a fare la superstar. Accompagna il suo tetro, Segreti di Famiglia, con Vincent Gallo. Dramma familiare sullo sfondo di una Buenos Aires in bianco e nero. Ciao. Tetro, sei ancora sveglio? Tuo fratello è arrivato. Le persone qua giù sanno pochissime cose di me. Quando l'ho conosciuto, aveva detto che era uno scrittore. La nostra famiglia sono affari anche miei. Parlami di mia madre. Sai che cos'è l'amore in una famiglia come la nostra? Una rapida pugnalata al cuore. Il resto è Natale, davanti ai nostri occhi, con la volata botteghino fra panettoni italiani e filmoni americani, possibilmente con gli occhialini, come Christmas Carol, perché il 2009 è stato anche l'anno del 3D. Tu riceverai la visita di tre spiriti. Attendi il primo domani al rintocco della prima ora. Lo potrai vedere insieme, per non pensarci più. E allora, titoli di coda su chi nel 2009 ha lasciato per sempre i sogni di celluloide di milioni di spettatori. L'angelo di Charlie, Farrah Fawcett, il fantasma innamorato Patrick Swayze, Mr. Kill Bill, David Carradine, i maestri di commedie John Hughes e il nostro Luciano Emmer. Tutti continueranno a vedere il cinema dall'alto, come in fondo hanno sempre fatto. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, speciale Capodanno, eccoci qua nel primo giorno del 2010 a raccontarvi il cinema come è stato nel 2009, lo abbiamo fatto nella prima parte, e come sarà, lo facciamo adesso, lo facciamo con un ospite sempre gradita come Piera De Tassis, direttore di Chuck, il principale mensile italiano di cinema e anche il più vecchio, fra virgolette, dove vecchio è assolutamente un valore, perché ormai sono davvero tanti anni che Chuck ci racconta un po' il cinema che vediamo. e come sempre è anche un punto di osservazione importante per le novità, per le anteprime. Allora Piera, grazie intanto di essere qui con noi, buon anno anche a te, e parliamo dei film del 2010, parliamo soprattutto di quelli più attesi, di quelli che il pubblico del cinema e dei cinefili sta aspettando con trepidazione, perché si tratta di pellicole molto chiacchierate, di cui abbiamo seguito ogni momento, ogni passaggio della produzione, che finalmente stanno arrivando sugli schermi italiani. Siccome il primo sarà Avatar, è ormai imminente l'arrivo del film di James Cameron, lo sapete, un film che ha avuto anni e anni di gestazione, chi lo ha già visto, personalmente mi è capitato di vederne già una ventina di minuti in attesa dell'anteprima italiana, è rimasto estasiato sotto il profilo tecnico e tecnologico, la tecnologia applicata non tanto e non solo al 3D, ma quanto proprio alla creazione dell'immagine e degli ambienti è davvero usata ai massimi del suo potenziale. Ebbene, dicevo, chi l'ha visto e ne ha viste delle parti è rimasto estasiato dalla bellezza, il che poi chiaramente non significa che un film possa vivere solo di quello, c'è sempre una storia da raccontare, ma Cameron è uno che ha dimostrato parecchio in questo senso in passato. E allora si apre con Avatar, Piera, grande spettacolarità e un film in 3D. Possiamo dire che è un segnale dell'anno che verrà, che sarà un 2010 con gli occhialini? Beh, è sicuramente l'apertura dell'anno, per noi dell'anno, perché è uscito in tutto il mondo, va detto, da noi arriva in ritardo, è sicuramente un segno forte per il cinema, perché questo segnale del 3D, che forse all'inizio avevamo un po' sottovalutato, no? Perché se n'era già visto, effettivamente ha una forte capacità di attrazione e soprattutto, secondo me, disegna un panorama che ancora non sappiamo di possibilità e di innovazioni linguistiche, io credo che ancora non abbiamo visto tutto. Sicuramente un altro punto forte per parlare di 3D sarà per esempio il Alice nel Paese delle Meraviglie, in Wonderland di Tim Burton, che è, questo non l'abbiamo scritto, ma il film più atteso dai lettori di Chuck e da tutti noi, fino ad arrivare allo Shrek 4, insomma il 3D avrà sicuramente un ruolo da protagonista. Ecco, proviamo a spingerci oltre Avatar, dopo questa metà gennaio che sarà contrassegnata dal film di Cameron, quali sono poi gli appuntamenti successivi con i film più attesi di questa stagione? Guarda, io penso che sicuramente non è il suo film più riuscito, ma Amabili Resti di Peter Jackson è sicuramente un film che vale la pena di vedere, e anche quello, pur non essendo in 3D, si spinge su strade di sperimentazione di effetti speciali abbastanza straordinari. Sicuramente ci sono e vanno segnalati poi film che arrivano subito adesso a gennaio, come Tra le nuvole, Up in the Air, il film con George Clooney, che è molto molto quotato per gli Oscar. C'è Nine in arrivo, il film che devo dire in America non è andato molto bene, ma insomma è il film che rivisita in qualche modo, per essere sintetici, 8 e mezzo in chiave di musical, con un cast assolutamente stellare, da Penelope Cruz a Nicole Kidman, Sofia Loren, insomma, e chi più ne ha più. Daniel Day-Lewis, che insomma, come Daniel dire, sempre numero uno. Direi che in generale c'è una buona ventata di film all'inizio, in questi primi mesi insomma dell'anno. Ti direi e segnalerei anche una grande stagione italiana che inizia, almeno sulla carta, perché tutto non abbiamo visto, però sicuramente a partire, non so, dall'Uomo che verrà di Giorgio Diritti, che si è aggiudicato tutti i premi possibili a Roma, fino al film di Virgil, il film di Verdone, ma poi ci saranno una nuova commedia di Giovanni Veronesi che promette molto bene, perché è più autoriale, che si chiama Genitori figli, agitare con cautela prima dell'uso. Ci sono i nuovi film di Ferzan Ospetek in arrivo, c'è il film di Muccino, 10 anni dopo L'ultimo bacio arriva Baciami ancora. E direi anche Nanni Moretti. E Nanni Moretti, che inizierà a lavorare a fine gennaio, almeno così dice la leggenda, e con il suo nuovo film Abemus Papam, credo. Sì, questo dovrebbe essere il titolo che è stato distribuito per il momento, ma sai. Per il momento, appunto, con insomma questo Papa in crisi che viene psicanalizzato credo proprio da Moretti, insomma, quindi una storia diversa, strana, interessante già sulla carta, insomma, sicuramente abbastanza esplosiva. Ah, odio fare gli italiani, ho dimenticato una commedia che da quello che abbiamo visto finora pare molto interessante, anche una svolta più leggera di Salvatores, che è Happy Family. Quindi insomma, il materiale per essere contenti non manca, ci saranno anche film più di nicchia, insomma, che però da A Single Man, che ha trionfato a Venezia, il film di Tom Ford, il primo film di Tom Ford con un Colin Firth assolutamente strepitoso, fino a, ecco, segnalerei un piccolo film che si chiama An Education, che fa già molto parlare anche questo in vista degli Oscar, un film inglese, una storia romantica abbastanza fra un uomo molto grande e un adolescente, che insomma consiglio a tutti di non perdere. Piero De Tassis, direttore di Chuck, grazie per averci così regalato qualche appunto da segnare sulla nostra agenda per non perdere i film più importanti o almeno più attesi di questo 2010. Ovviamente poi per non perderli basta seguire La Rosa Purpurea tutti i sabati alle 18 e tutte le domeniche mattina alle 9 e rimarrete sempre costantemente informati su tutto. Andiamo un'occhiata anche, perché c'è pur chi magari stasera vorrà andare a vedersi un film al cinema, alla classifica degli incassi dello scorso fine settimana, che comprendeva il giorno di Natale, quello di Santo Stefano e il 27. Sempre più primo Natale a Beverly Hills, cinepanettone per eccellenza con De Sica, più di 14 milioni già incassati alla fine della settimana scorsa, che sono praticamente il doppio di quanto ha incassato Io e Marilyn di Pieraccioni, che è secondo a 7 milioni di incasso globale. Regge bene Sherlock Holmes, che nel primo weekend ha portato a casa 4 milioni e mezzo di euro e tutto sommato potrebbe guadagnarne ancora anche di posizioni nelle prossime giornate. Poi La principessa e il ranocchio Disney, Christmas Carol di cui abbiamo parlato, Piovono polpette, Brothers, che ha un buon incasso per essere un film drammatico, insomma, di un certo tenore anche di contenuti, considerato che è un film proprio sulla figura di un reduce dalla guerra in Afghanistan, Cado dalle nubi, Checco Zalone, la sorpresa di questa stagione natalizia, Amelia, esordio così così al nono posto, ma forse anche il film è così così, e al decimo posto ancora Astro Boy, anche lui un po' schiacciato dalle proposte natalizie. Quindi questo anche per rinfrescarvi la memoria su quali sono i film in sala in questo periodo. Però adesso vi abbiamo promesso, prima di chiudere questa nostra mezz'ora insieme di Capodanno, diamo l'occhiata anche al 2010 dell'home video. Abbiamo parlato del 2009 del cinema, del 2010 del cinema, adesso cerchiamo di capire un po' cosa ci aspetta in videoteca e anche quali novità tecnologiche potrebbero arrivare sulla nostra console nel 2010. E migliore oroscopo non ce lo può scrivere altri che Claudio Pofi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco. Allora, intanto auguri, perché siamo a Capodanno e quindi cominciamo questo 2010. Da tanti anni Claudio Pofi e La Rosa Purpura ci racconta i DVD proprio con il taglio più tecnologico possibile, anche per raccontarci un po' quello che c'è dietro questa rivoluzionaria tecnologia che da un decennio almeno, anche se è qualcosa in più in realtà, ha cambiato il nostro modo di fruire il cinema in casa. Nel 2009 ci si è messo anche il Blu-ray a trovare la sua forse ancora piccola esplosione, che potrebbe essere consacrata nel 2010, ma ne parliamo fra un attimo. Prima Claudio, ti volevo chiedere questo: per le uscite on video, almeno nei primi mesi del 2010, cosa c'è da attendersi? Quali sono le uscite in videoteca maggiormente attese di questo periodo? I titoli sono veramente tanti, c'è grandissima attesa per dei titoli che erano stati annunciati già all'inizio del 2009, ma che sono poi slittati per vari motivi al 2010, confermato su tutti in assoluto in uscita ad aprile la trilogia del Signore degli Anelli, solo nella versione cinema, quindi non saranno disponibili immediatamente in Blu-ray in alta definizione le versioni estese, questa sarà un'uscita worldwide, quindi disponibile ai primissimi giorni di aprile anche in Italia. Seguiranno sempre da parte di Medusa il doppio film Grindhouse a prova di morte e Planet Terror, da Universal Bastardi senza gloria in un'edizione speciale che sarà ricchissima di extra, da Sony Pictures Home Entertainment sicuramente District 9, Piovono Polpette, e il documentario Michael Jackson This Is It. Indimenticabile per il 70° anniversario tornerà per la prima volta in alta definizione da Disney Dumbo, e sicuramente La principessa in ranocchio. Da 01 si concluderà la trilogia tratta dai romanzi polizieschi dello scrittore giornalista svedese Stieg Larsson, la trilogia Millennium, con l'uscita La ragazza che scherzava con il fuoco e La regina dei castelli di carta. Questi secondo me sono i titoli più attesi del 2010. Tecnologicamente abbiamo detto 2009, l'anno della piccola esplosione, forse non quanto ci si aspettava, del Blu-ray, che comunque in questo Natale ha un po' cominciato ad attecchire. Vuoi anche che la tecnologia avanza anche per quanto riguarda i televisori, addirittura i decoder HD. E il 2010 vedrà l'esplosione definitiva di questo formato, e inoltre, sotto il profilo tecnico, quale altra macchina, quale altra diavoleria ci aspetta sul nostro banchetto sotto il televisore nel prossimo anno? Possiamo aspettarci sicuramente una crescita del Blu-ray grazie anche alla discesa dei prezzi di entry level per quanto riguarda proprio i lettori Blu-ray. Sono scesi sotto la soglia dei 100 euro, alcune macchine comunque con tecnologia molto molto interessante. È stata la prima Disney ad annunciare quest'anno che entro la fine del 2010 sarà disponibile, speriamo anche in Italia, ma sicuramente Giappone e Stati Uniti saranno un po' la testa di ponte, saranno disponibili i primi film in Blu-ray a tre dimensioni con occhiali attivi, quindi con la possibilità di fruire la tridimensionalità né più né meno come la si può fruire oggi con il cinema digitale ad alta definizione. Questo sicuramente è l'annuncio più interessante per il 2010, un'aspettativa da parte degli appassionati di tecnologia. Quindi speriamo magari che all'interno della rosa di questi primissimi titoli che verranno rilasciati dalle case, magari farà già parte anche quell'avatar di James Cameron della Fox. E allora grazie Claudio Poffi per averci così istradato, e poi settimana per settimana scopriremo tutto quello che riguarda l'home video nel nostro programma, nella Rosa Purpurea. Grazie Claudio, un saluto. A presto, un saluto e auguri. E con gli auguri di Claudio Poffi noi chiudiamo questa puntata speciale di Capodanno della Rosa Purpurea. Appuntamento però fra poche ore, alle 18 di domani e poi alle 9 del mattino di domenica, per raccontarvi le prime novità sul grande schermo del 2010. Un saluto da Franco D'Assisti.